il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La scorsa settimana al Quadrifoglio abbiamo parlato di pesci nei fiumi del Veneto. Oggi rimaniamo in argomento acqua e parliamo di turismo fluviale, un modo diverso di viaggiare e di visitare il territorio. Nuovo in realtà per noi, perché almeno fino al Settecento era il modo privilegiato di viaggiare nel Veneto e ancora fino a pochi decenni fa il commercio e il trasporto via barca erano importanti. Poi tutto è cambiato, sono stati tombinati alcuni corsi d'acqua, altri sono stati resi non navigabili, sono spariti gli approdi, magari anche solo perché non c'è stata manutenzione. Adesso c'è di nuovo interesse, pare, verso il turismo fluviale, che può anche essere un modo per spingere una maggiore responsabilità verso i nostri corsi d'acqua. Già ne abbiamo parlato un paio d'anni fa, qualcuno se lo ricorderà, con il professor Vallerani dell'Università di Padova. Oggi lo facciamo con chi sul fiume passa gran parte dell'anno, Rudy Toninato, capitano ma anche titolare della Delta Tour, agenzia specializzata in escursioni fluviali. Buongiorno Rudy. Buongiorno a tutti voi, grazie della telefonata, dell'intervista. Grazie. Confermi la crescita di interesse verso il turismo fluviale dal vostro punto di vista? Beh, interesse da parte nostra del turismo fluviale non nasce oggi, ma bensì nasce come Delta Tour dal 1986, quindi sono più di 31 anni che operiamo come società di navigazione sul territorio del Veneto. Nasciamo sul Delta del Po, ecco perché ci chiamiamo Delta Tour, e poi nel corso degli anni, nel passare degli anni, aumentando lo sviluppo appunto delle nostre offerte e di quant'altro, nel 1993 iniziamo a navigare sul Piovego a Padova. Iniziamo a navigare sul Piovego, non solo sul Piovego, ma anche sul Bacchiglione e nonché altro che sul canale Battaglia fino a Monselice. Quindi l'interesse è una cosa che ha le sue radici, quindi siamo già più di 24 anni che siamo presenti nel territorio padovano. E la gente dal punto di vista dei turisti, ma anche gente che abita nel territorio, non solo chi viene da fuori, come trovano questa proposta? Beh, la navigazione sul fiume da sempre piace tantissimo. Purtroppo è poco conosciuta, poco promozionata, infatti una delle nostre più grandi battaglie è sempre stata quella di promuovere la navigazione fluviale, quindi proprio che gli uffici di turismo, gli uffici turistici siano promotori del turismo fluviale come meta di destinazione turistica e su questi ambiti ci siamo veramente spesi a più non posso in tutti i fronti. Logicamente, come potete ben capire, con i risultati che non sempre hanno esordito alle aspettative e alle speranze che avevamo. Ciò non toglie che non abbiamo mai demorso, continuiamo tranquillamente a operare, continuiamo sempre a battere sul promuovere il turismo fluviale. Chi sceglie di venire in barca per fare un'escursione o anche una vacanza? C'è un pubblico particolare, non so, le scuole, i turisti stranieri, gruppi di qualche genere? Beh, senza ombra di dubbio hai toccato un tasto veramente importantissimo. Chi sceglie? Innanzitutto delle scuole che abbiano una sensibilità maggiore sul rispetto dei fiumi, sulla tutela dell'ambiente e sul rispetto della mobilità alternativa. Quindi oggi fare turismo fluviale vuol dire toccare dei temi veramente tematici che tutti se ne parlano, tutti si riempiono la bocca, ma pochi fanno. E questo significa, vuol dire A, rispetto per l'ambiente, B, una mobilità diversa, e C, anche l'utilizzo di mezzi ecologici, visto che noi come Delta Tour nel 2004 siamo stati la prima azienda in Italia che con soldi privati abbiamo costruito la prima imbarcazione elettrica, che comunque è presente nel territorio a Padova. E la cosa che mi fa un po' sorridere è che abbiamo fatto la barca, ma il comune ancora da quell'epoca ha bloccato le licenze per il trasporto, quindi siamo autorizzati, siamo licenziati e tutti in regola con tutto, però con licenze di altri comuni, e ahimè navighiamo a Padova. Quindi non ho capito, voi potete partire da Padova, non potete partire da Padova, ma potete utilizzare i tratti di fiume negli altri territori. Possiamo partire da Padova, possiamo partire da altri territori, si parlava solo di licenza. Perché c'è una legge regionale che si chiama legge 63 del 93, mi sto autodenunciando in poche parole, per dirti che noi ci siamo mossi, abbiamo creato mezzi alternativi, ecologici e quant'altro, ma l'amministrazione pubblica con i suoi tempi è talmente veloce che dal 1999 non ha più rilasciato autorizzazioni al trasporto fluviale. Questo ti fa ben capire che se non c'è una politica attenta a sviluppare il turismo fluviale, cioè abbiamo poco speranza di andare avanti in senso spedito, ci vorrebbe più attenzione anche sulla parte amministrativa, più che altro dire sul piombo si naviga. Ti faccio un esempio, il 4 di maggio stavo navigando con una scuola, ho fatto una fotografia che ho postato sul mio social, dove dico guardate, è da gennaio che un albero è caduto davanti ai giardini dell'arena, è da gennaio che l'albero rimane in mezzo al canale davanti ai giardini dell'arena. Come potrei ben capire, se non interviene la pubblica amministrazione a manutentare, a togliere l'albero, cioè facciamo fatica noi imprenditori a sviluppare un turismo di un certo livello. Torniamo su questo argomento tra poco, ci fermiamo per qualche minuto. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. La vita che ho deciso, l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso, io la volevo forte, come le mani di mio padre, per farmi attraversare. La vita che ho deciso, il mio più bel vestito, aspettando un'occasione come fosse una stagione, come una buona idea, a cui non rinunciare, con gli occhi rossi di chi corre perché non può più aspettare. E sprecciano i ricordi tra grovigli di emozioni, ci sarà un momento per restare soli, e fisserò la porta da cui te ne vuoi andare, perché niente, niente può più farmi male. Sai tu il mio secondo cuore, che ho deciso, un istinto naturale, su tutti i dizionari esiste la parola amore, eppure non c'è scritto che siamo eccezionali, a guardarci in fondo agli occhi senza cedere ai proclami. Il rumore dei ricordi come foglie sulla strada, questa notte che vorrei trovarti a casa, e fisserò la porta da cui potrai tornare. Poi niente, niente può più farci male. Sei tu il mio secondo cuore. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di navigazione fluviale, di turismo fluviale, con Rudy Toninato, titolare della Delta Tour, agenzia specializzata in questo tipo di escursioni. Stavamo parlando un po' dello stato dei fiumi, di situazioni concrete che si trovano. Qual è dal punto di vista dal vostro osservatorio, lo stato dei fiumi veneti, dal punto di vista della navigabilità ovviamente? L'aspetto della navigabilità sotto profilo della qualità dell'acqua è notevolmente migliorata, perché non ti nascondo che 24 anni fa quando abbiamo iniziato, 23 anni fa quando abbiamo iniziato, lo stato dell'acqua del Piovego era pressoché pessima. Poi sono stati fatti interventi sulla regimentazione delle fogne, sul trattamento appunto degli scarichi fognari. Oggi la qualità dell'acqua della navigazione dei fiumi vuole dire che è quasi eccellente, mi fermo a dire è quasi eccellente. Si vede anche dalla quantità di pescatori che hanno ripopolato i fiumi, dalla quantità di persone che sono lungo gli argini, quindi A, meno immondizie gettate dai cittadini sul piovego, quindi maggior rispetto per il fiume, B, una qualità dell'acqua migliorata al 100%. E queste cose si vedono se si va sul fiume, se si va in barca. Sul fiume, che una volta nel 93 navigavamo, vedevi in superficie proprio i residui proprio di fogne in superficie, oggi da dimenticare non c'è più niente, vedi un'acqua trasparente, un'acqua limpida, vedi una popolazione, una fauna, una flora veramente rigogliosa sotto i profili sia acquatici che del bordo riva. La cosa che è peggiorata è il livello di interesse di dragaggio dei fiumi, cioè praticamente non c'è più, assolutamente non ci sono fiumi dragati, non ci sono pontili manutentati, quindi molti pontili sono lì abbandonati a se stessi, e questa cosa proprio si vede, si sente, manca. Senti, quali fiumi sono adatti alla navigazione nel Veneto? Sono rimasti o sono ancora? E quali vorresti che c'è un, ci sono dei progetti o comunque il desiderio che si potessero riaprire? Guarda. I fiumi che si possono navigare sono notevolmente tanti. Cioè, calcola che da Padova puoi partire dalla conca delle Porte Contarine, potresti risalire il Piovego fino alla conca, al ponte di Sant'Agostino in salita. Poi se fai tutto il giro dall'altra parte facendo il canale dello scaricatore e vai su fino alla conca di Volta Barozzo, prendi il Bacchiglione, vai su fino a Cerverese Santa Croce, praticamente potresti arrivare fino al castello di San Martino delle Vanezze. Poi prendendo il canale Battaglia navighiamo già oggi fino a quasi est, quindi Monselice lo facciamo tutto e arriviamo quasi ad est. Quindi poi se naturalmente andiamo verso Noventa Padovana, puoi arrivare a Stra, in salita arrivi fino a Limena, quindi proprio domani mattina imbarchiamo al pontile di Vigo d'Arzere, una scuola di Vigo d'Arzere che farà la gita sulla riviera del Brenta. Però poi se vuoi prendere la riviera del Brenta navighi tutto il Brenta fino a Venezia, quindi la quantità di fiumi da navigare è tantissima. Una volta arrivato a Venezia calcola che puoi prendere arrivi a Chioggia, poi prendi l'idrovia Po Brondolo, arrivi fino al Po, dal Po puoi fare il Fissero Tratto della Bianca, arrivare tantissima. Quindi si possono fare anche nelle nostre parti addirittura dei viaggi di più giorni, quindi non solo un'escursione di poche ore. Già adesso tu vedrai a Padova le famose houseboat, sono piccole imbarcazioni che si possono anche noleggiare o a Chioggia o a Precenico nella parte di Udine, houseboat che prendi per una settimana, per quattro giorni, per tre giorni, e ti puoi fare un percorso fluviale che è meraviglioso stando a bordo più e più giorni, quindi non c'è nessun problema. Benissimo, io ti ringrazio di queste informazioni. Volevo dare un sito internet dove magari qualcuno possa trovare dei riferimenti per contattarvi o avere anche qualche idea per organizzare un'escursione o anche proprio una vera vacanza. Certo, noi su www.deltatour.it ci sono poi dei sottositi, troveranno tutte le informazioni per avere tutte le informazioni sul giro in barca con Delta Tour, ma poi anche le crociere fluviali che facciamo di una settimana con l'imbarcazione La Bella Vita, facciamo una settimana di crociera, quindi benvenuti tutti a bordo. Grazie, buona giornata. Grazie a te, buona giornata. Dai fiumi passiamo a un paio di notizie per chiudere la trasmissione. Fino al 2 luglio è possibile visitare a Rovigo, a Palazzo Roverella, una mostra fotografica che riunisce oltre 100 scatti che raccontano il Delta del Po negli anni 50. L'autore è Pietro Donzelli, milanese di nascita, che in Polesine realizzò la serie di fotografie intitolate Terra senza ombra, capolavoro della fotografia neorealista e documento prezioso della storia del territorio. Nei suoi scatti compaiono infatti ambienti meravigliosi ma anche drammatici, abitati da gente che vive tra terra e acqua, costretta a misurarsi con una natura spesso ostile di cui restituisce un ritratto di grande dignità. La mostra è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con il Comune di Rovigo e l'Accademia dei Concordi. Infine, l'assessore regionale alla difesa del suolo e all'ambiente Giampaolo Bottacin ha presentato inizio aprile il nuovo piano cave. Dopo l'impugnazione da parte del governo nazionale del nostro articolo di legge regionale approvato in dicembre, ha sottolineato l'assessore, abbiamo presentato il nuovo piano cave che ne riprende peraltro la filosofia. I principi cardine sono il divieto di aprire nuove cave e un massimo di 9,5 milioni di metri cubi di ampliamenti nei prossimi 10 anni.